Ho bisogno di un po' di silenzio. Avete tessuti? Lui compra tutti i tessuti della Galilea. E chi? Un mercante romano. Vi pagherà prezzi altissimi. Pare che i nostri stracci piacciano ai romani. Le patrizie li tingono di tutti i colori. Lui forse compra. Mi comprerà questo. Guarda quanto mi ha dato. E c'era anche un buco di tarma. Non l'avrei usato come coperta per un somaro, quello straccio. Prendi anche la mia. Guarda. Sono contenta. Guarda quanto mi ha dato. Tu hai pagato più di quanto dovevi. È questo che ci hanno insegnato. Preghiamo per mondarci dei peccati di avidità, per poi, appena capita, frodare lo straniero in mezzo a noi. Io non me ne vergogno, Justus. Questo denaro proviene dalle tasse che ci distanguono. Forse una colpa ne giustifica un'altra? Amici, dobbiamo ridurci disonesti perché la vita è dura. Ti rendo grazie. Spero che perdonerai i miei amici. Non mi lagnavo. Non si è frodati quando un prezzo ci soddisfa. Ma non eri tu che ci perdevi. Essi stavano frodando se stessi. Salve, mercante. Che noi crediamo alle fandonie di questo Gesù che guariva col tocco delle sue mani, che faceva camminare gli storpi e ridava la vista ai ciechi. Non ha importanza che tu lo creda o no, Cesare. Quello che conta è che non si sa che abbia mai accecato nessuno. Non si sa che abbia storpiato nessuno o alzato le mani altro che per sanare. Immediatamente al palazzo degli arcieri e messo a morte per alto tradimento. Marcello è mio promesso sposo. Io chiedo di seguirlo. Torna qui! Tu non sei in giudizio! Non ci sono accuse contro di te! Allora con tua venia ti fornirò l'accusa. Non voglio vivere neanche un'ora di più in un impero governato da te. Osi farti chiamare Cesare. Una volta i Cesari di Roma erano nobili, ma in te quel nobile sangue si è fatto veleno. Tu corrompi Roma con la tua perversità. Basta, basta! E tu saresti Cesare, vizioso, perfido, ebro di potere, un diabolico insano mostro mascherato da imperatore. Basta! In quanto a me ho trovato un altro re. Voglio andare con Marcello nel suo regno. Che parla di nulla. A me piace parlare di nulla, padre. È l'unica cosa di cui so qualcosa. Questo è un paradosso, signorino. E io odio i paradossi. Anch'io, padre. Ogni persona che si incontra è un paradosso oggigiorno. Ciò rende la società così comune. Tu capisci sempre quello che dici? Sì, ma devo ascoltare attentamente. Oh, questione è molto semplice. Gigi D'Agostino. Vi racconto il mio cammino. years away. And now you know I can't smile without you. I can't smile without you. I can't laugh and I can't sing. I'm finding it hard to do anything. You see, I feel sad when you're sad. I feel glad when you're glad. If you only knew what I Gigi D'Agostino. Taken lots of chances before, but I'm not. Voglio la cassa che mi scassa. Lo studio delle cause

Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. E di nuovo cambio casa, di nuovo cambiano le cose, di nuovo cambio luna e quartiere. Come cambia l'orizzonte, il tempo, il modo di vedere. Cambio posto e chiedo scusa, ma qui non c'è nessuno come me. E stasera do lavare il mio vestito per l'amore. Cambio donna e cambio umore stasera. Stasera voglio uscire che mi facciano parlare. Voglio ridere, voglio bere io. Stasera cambio amore tutto qui. Ma sapere dove andare, come sapere cosa dire, come sapere dove. Ma dentro casa, inverno e fuori no. E vendo casa per un motore, la soluzione è la migliore. Un motore certamente può tirare la mia fantasia un po' danneggiata. Da troppo tempo parcheggiata. E poi cambiare casa, come cambiano le cose. Finito il cammino e vi ringrazio un pochino, ma gli abbracci sono tanti.